Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 26 gennaio, bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro Eduradio TV, il programma che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda un'ora al giorno, tutti i giorni, sulle nostre emittenti Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV Canale 118. Io sono sempre Caterina Bombarda, qui con voi per mezz'ora con Antonella Cortese. Ciao Antonella, buongiorno. Ciao Caterina, buongiorno a tutti. E partiamo subito dalle notizie di oggi, sempre a tema carceri, Bologna, il laboratorio teatrale della Dozza, lo leggo da bandieragialla.it, firma di Fabrizio Pomes. Fabrizio lo conosciamo, è un amico, quindi lo salutiamo anche e lo ringraziamo per questo articolo che ci riporta subito a quelli che sono i laboratori teatrali, in particolare del Teatro dell'Argine, all'interno del carcere Dozza di Bologna, che hanno ripreso le loro attività. E infatti, scrive Fabrizio, il passaparola attivato nei corridoi della sezione penale della Casa Circondariale di Bologna è partito e le domande dei detenuti sono tante, perché decidendo se poter usufruire di questa opportunità di fare un corso di teatro sorgono tante domande, non so recitare per chi, ma ce la facciamo, questo attestato per attori ci servirà, solcheremo i palcoscenici, ecco, tutte queste domande affiorano nella mente di chi può scegliere se fare un laboratorio teatrale o meno. Caterina, ma tutti questi dubbi alla fine hanno frenato la voglia di ripartire? No, assolutamente no. Il laboratorio è ripartito, lo ricordiamo, dopo ormai questo anno e mezzo di pandemia che aveva bloccato non solo i colloqui ma anche tutte le attività ricreative e interculturali all'interno del carcere. È una notizia questa che le attività di gruppo abbiano ripreso, naturalmente con qualche pausa ogni tanto, perché ormai lo sappiamo, già dalla settimana scorsa ci sono stati i blocchi all'interno del carcere di Bologna, in particolare sia dei colloqui che delle attività di gruppo, questo dovuto ai tassi alti di contagio, quindi sempre in una situazione di allarme, però c'è la voglia di ripartire e di rifare progettualità. E naturalmente le persone hanno aderito, ma c'è stata anche un po' di scrematura, scrive Fabrizio, magari all'inizio si era in 15 a partecipare, poi dopo il numeri calano e si diventa una decina a partecipare ai laboratori. Questa è una cosa tipica, un po' in tutti i corsi succede questo. Senti, ma che cosa si dice di questa esperienza di teatro in carcere? Guarda, in realtà Fabrizio ci scrive che è difficile descrivere questa esperienza con carta e penna, perché è una sintesi di umanità, di professionalità e di tanto impegno e dedizione da parte di questi insegnanti, tra virgolette, che entrano in carcere, e anche da parte ovviamente dei detenuti, l'impegno. E forse insegnanti, scrive Fabrizio, è una parola un po' grossa, perché ci ricorda il mondo della scuola, invece stiamo parlando di ragazzi molto spesso che sono conduttori di queste attività, sono attori, videomaker, che si sono impegnati anche con grande dedizione e entusiasmo a fornire ai detenuti gli strumenti per approcciarsi all'esperienza teatrale. Un lavoro che ha visto impegnati i detenuti e con i loro insegnanti nei primi mesi con un progetto che ha previsto la realizzazione di un cortometraggio e un documentario e anche uno studio teorico che ha spaziato dai grandi registi teatrali come Shakespeare, Brecht, tra i vari anche generi teatrali, dal teatro antico, la commedia dell'arte, fino a passare al teatro dell'assurdo. Quindi è stato anche un lavoraccio per questi insegnanti, che sono Paolo, Giacomo e Mattia, che salutiamo e ringraziamo per questo grande lavoro che si sono prodigati con questa grande sensibilità e impegno a coordinare un laboratorio teatrale in carcere. Sì, il coordinamento artistico è di Micaela e comunque annunciamo in anteprima che loro ci produrranno ben 5 incontri proprio su questo documentario, in cui interverrà ognuno di loro, tutti coloro che hanno partecipato, e quindi sarà un bel lavoro dedicato proprio alla Dozza, a quello che è successo. E un lavoraccio, dicevi tu, sì, in effetti naturalmente non lo è soltanto un lavoraccio per chi insegna teatro, ma anche effettivamente per chi recita, perché bisogna impegnarsi, bisogna studiare, insomma, mica una cosa che si mette in piedi così. Sì, esatto, e poi per ritornare su quello che hai detto, Micaela Casalboni è la grande mente dietro tutto questo, una attrice e insegnante di teatro, e questo spettacolo che è stato presentato il 22 dicembre scorso al Teatro dell'Argine di San Lazzaro, nell'ambito della terza edizione di Per Aspera ad Astra, si intitola In Assenza, storie di teatro in carcere ai tempi della pandemia, e ovviamente ha visto per un piccolo pezzo protagonisti anche

Mi sembra un progetto molto molto importante questo, Antonella, per il quale credo, tra l'altro, abbiano stanziato un bel po' di soldini, vero? Eh sì, hanno dovuto stanziare un po' di soldini, in realtà sono 7 milioni di dollari e questo progetto sarà attuato congiuntamente dal team FAO Global Forest Resource Assessment, che è la valutazione più autorevole e completa delle foreste e della silvicoltura, e dal National Forest Monitoring, che è il sostegno alla produzione di informazioni aggiornati sullo stato delle foreste in più di 50 paesi, tra cui un terzo ovviamente in Africa. L'accordo, Caterina, dura 4 anni, con un contributo iniziale di 2,3 milioni di dollari erogato dalla Finlandia, e intende sviluppare sistemi nazionali di monitoraggio forestale moderni, trasparenti, affidabili e accessibili. Prevede infatti la fornitura di strumenti gratuiti e open source per la raccolta di dati aggiornati, con sistemi di telerilevamento e inventari sul campo. E l'iniziativa Open Forest, avviata nel 2009 dalla FAO, con il sostegno sempre della Finlandia, fornisce beni pubblici digitali open source, come vi dicevo, utilizzati proprio per fare questo monitoring. E c'è da dire una cosa, che mettere a disposizione di tutti, del mondo scientifico globale in particolare, le conoscenze che si acquisiscono attraverso le ricerche è un lavoro molto importante e ce ne siamo accorti proprio in questo periodo di pandemia. Condividere i dati, le idee, le soluzioni diventa determinante. E anche aggiornare costantemente i dati è un aiuto molto importante per adottare decisioni corrette. Questo lo sostiene Maria Elena Semedo, vice direttrice generale della FAO, e dice che questa è una collaborazione fondamentale, importantissima, perché aumenterà le capacità di monitorare in modo innovativo e accurato le foreste, appunto per proteggere questo patrimonio, però è anche un riflettore importante sull'emancipazione delle donne in Africa, perché porterà la nostra esperienza e i nostri strumenti dove è più necessario. Antonella, abbiamo parlato tanto nei nostri buongiorni di Eduradio della condizione delle donne in Africa, quindi questo mi sembra un punto importantissimo, vero? Sì, hai ragione Caterina, ne abbiamo parlato spesso, ne continueremo a parlare perché l'emancipazione delle donne in Africa, ma come in altri posti, va sostenuta soprattutto con fondi destinati al lavoro femminile, oltre che alla scolarizzazione ovviamente. E alla Semedo, tra l'altro, fa eco Ville Skinnari, ministro per la cooperazione allo sviluppo e il commercio estero della Finlandia, e dice che la Finlandia ha oltre 100 anni di tradizione e competenza nella valutazione e nel monitoraggio delle foreste e quindi è molto lieta di collaborare con la FAO e offrire tutto il proprio know-how per contribuire ad arrestare e invertire la perdita di foreste e il degrado del suolo entro il 2030, data, anno che continua a riecheggiare, un momento veramente importante sarà il 2030. Esatto, ma ricordaci un attimo quali sono i punti dell'accordo tra la FAO e la Finlandia. Sì, allora sono il sostegno alle attività di sviluppo e di formazione del capitale umano, con particolare attenzione alla partecipazione delle donne, come abbiamo appena detto. Fornitura di strumenti e tecniche per raccogliere e analizzare informazioni aggiornate sulle risorse forestali. Comunicazione a livello nazionale e internazionale con cadenza annuale dei processi in corso. Questo sembra una banalità, invece è importantissimo, perché se le cose non si condividono, poi rimangono patrimonio soltanto di uno Stato o comunque di un gruppo. L'obiettivo finale del progetto è quello di sostenere il raggiungimento degli obiettivi del piano strategico delle Nazioni Unite per le foreste 2017-2030 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 relativi alle foreste. Quindi ridurre la deforestazione e il degrado forestale, promuovendo e facilitando la gestione e l'uso sostenibile delle foreste. Il progetto ovviamente sostiene anche la dichiarazione dei leader di Glasgow, di cui abbiamo parlato all'inizio della settimana, sulle foreste e sull'uso del suolo, approvata alla COP26 da 141 paesi che possiedono oltre il 90% delle foreste del mondo. E i firmatari si impegnano a lavorare insieme per fermare la perdita di foreste e il degrado del suolo entro il 2030. E davvero incrociamo le dita. Però a questo punto passerei alla musica e a Mark Knopfler, lo conoscete perché è stato perché il gruppo si è sciolto, chitarrista dei Dire Straits, e ci ascoltiamo What It Is. E non andate via però, perché dopo c'è ancora l'intervista di Caterina all'assessore al welfare Luca Wilson. A dopo. Union Square. There's lads' glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. That's what it is. Frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the key. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. And sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland runs me in a row. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows when I come with you. It's what it is. It's what it is. Charlotte Street, I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is. Rieccovi e bentornati, io sono sempre Caterina, qui su Liberi Dentro e Duradio TV, e qui con noi già da ieri c'è l'assessore al welfare, nuove cittadinanze e fragilità del Comune di Bologna, l'assessore Luca Rizzonervo. Ecco, chiaramente per noi di Duradio, ma anche per la cittadinanza che ci ascolta, chiaramente è importante averla qui, siccome la nostra avventura come servizio di informazione iniziava nel 2020 in una fase del tutto sperimentale per accorciare le distanze che ci separavano dal carcere, allora chiuso, allora non si potevano nemmeno fare i colloqui, non si poteva entrare. E questo è un progetto che però è diventato in condivisione, in forte collaborazione, sostenuto da ASPE Città di Bologna e quindi chiaramente dall'amministrazione comunale bolognese. Ecco, io le voglio chiedere, siccome lei ha l'assessorato e anche con la delega sul carcere, che idea si è fatto del penitenziario in questi anni e se ritiene possibile, quanto affermato dal sindaco Matteo Lepore, del carcere come settimo quartiere della città. Sì, intanto fatemi dire che penso che questo progetto di Eduradio sia un ottimo progetto e che aiuti anche a fare ciò che sto per dire, che il sindaco Lepore ha sintetizzato in quella efficace formula del settimo quartiere della città, cioè a dire quello che dicevo, ribadivo un attimo fa, cioè che la città è una e che non ci devono essere luoghi su cui la città perde che la città perde di vista, che la città tiene fuori. Ma invece deve sentire pienamente dentro all'impegno complessivo sulla città. Il vostro lavoro, il vostro progetto aiuta enormemente a realizzare questo, perché parla alla cittadinanza tutta, la tiene informata sulla vita del carcere di Bologna, sulle situazioni che si vengono a creare, toglie anche, grazie all'informazione puntuale, tutta una serie di semplificazioni, di sentiti dire, di scarsa conoscenza sul carcere, insomma, aiuta a far conoscere la realtà per quella che è, non per quella che si immagina intorno a qualche, ripeto, sentito dire. Quindi, ed è importante altresì perché ovviamente dà informazioni anche alla popolazione carceraria, alle persone che sono in carcere, di opportunità, di informazioni sulla propria salute, sui propri diritti, sulle opportunità che ci possono essere all'interno del carcere, quindi svolge una funzione importante di cerniera fra la città e il carcere, appunto in un obiettivo che è quello di tenere insieme tutto, ecco, non separare, non distinguere e anche favorire quello che già oggi c'è nel carcere di Bologna. C'è una presenza importante di attività, progetti, associazioni che sviluppano idee che non sono per me idee sul carcere o per le persone in carcere, ma sono idee per la città che rispondono a persone che in questo momento hanno un periodo della propria vita nel carcere di Bologna. Ecco, quindi io credo che davvero quell'idea del carcere come il settimo quartiere di Bologna non sia uno slogan, ma debba essere un impegno quotidiano che tutti gli attori del sistema devono provare a perseguire. Ecco, lei assessore ha tra i suoi compiti anche quella di presiedere il Comitato Locale sull'Esecuzione Penale Adulti, che, lo ripetiamo, lo ricordiamo, è un tavolo di lavori che ha tra i suoi compiti la rilevazione dei bisogni all'interno degli istituti di pena, la conoscenza delle dimensioni dei fenomeni che interessano questo ambito e anche la programmazione di progetti innovativi. Quindi io le chiedo che possibilità ci sono per un rilancio del Comitato Locale su Bologna nel 2022. Le possibilità sono tante, l'intenzione è proprio quello, cioè di farne un luogo importante di programmazione condivisa, di progettazione condivisa, di capacità di stimolare anche progettualità nuove, di rinforzare le progettualità che sono già in essere all'interno del carcere, di aggiornare l'offerta, perché anche lì, ripeto, i bisogni, le attese sono sempre un qualcosa di in evoluzione, quindi non bisogna mai correre il rischio di sedersi sull'abitudine, quindi c'è bisogno di e quindi quello io credo che sia un luogo, l'ho già ovviamente presieduto in passato, è un luogo che non solo è utilmente di informazione reciproca e quindi di aggiornamento di tutti gli attori sui bisogni, sulle situazioni che si vivono in carcere, ma credo che sempre di più possa essere svolgere questo ruolo di progettazione condivisa su tutti gli aspetti, dentro al carcere e anche rispetto a tutto l'impegno necessario fuori dal carcere, sul dopo carcere, che è un aspetto su cui magari dopo diremo, ma insomma anche come Comune di Bologna abbiamo un impegno, una funzione particolarmente rilevante che vogliamo svolgere in pieno. E anche oggi io la ringrazio sempre di essere stato con noi, forse c'è ancora qualche minuto per una pausa musicale e ci rivediamo tra pochissimo per i saluti finali di fine puntata e noi assessore ci rivediamo domani, grazie. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città. Vieni, vieni in città, che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.